GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Famiglie, imprese e comuni strozzati dalle bollette, sostegno fotovoltaico, le vie d'uscita, l'allarme di Adiconsum e CISL. Trainata dall'edilizia, l'economia regionale è ancora in crescita, ma il quadro è in peggioramento, il report della Banca d'Italia. Nuovi voli a primavera da Trieste Airport per Dublino e Barcellona, si punta a 500.000 passeggeri all'anno nello scalo regionale. Prospettive di crescita per la Leonardo di Ronchi dei Legionari nella produzione di droni, dice il segretario FIME CISL Benaglia. Ferriera effettiva la permuta delle aree tra Stato e Acciaieria Arvedi, svolta green per l'area e 2-3 anni per completare i lavori. Operato in terapia intensiva, l'artigiano caduto ieri da 6 metri di altezza su una ringhiera in un cantiere di Udine. Politica frattura dei cittadini in vista delle regionali, tra chi vuole rimanere con il centro-sinistra e chi guarda al terzo polo. Onorificenza a Lubiana per Massimiliano Fedriga con la Slovenia, alleanza storica, dice il governatore al presidente uscente Pahor. Ci vuole orecchio, Elio canta Iannacci in tournée in regione, oggi visita la Fondazione Progetto Autismo di Feletto Umberto. 7:19 minuti di mercoledì 16 novembre. Buongiorno da Eva Ciucherita, amicoli. Subito uno sguardo al meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. A Trieste 13 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone 10 gradi e mezzo. A Tolmezzo 9 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 6 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 5 gradi, sul Piancavallo 4 gradi e 5 decimi, a Sappada 2 gradi e mezzo, su Monte Zoncolano Monte Lussari 2 gradi e 5 decimi, a Grado e Lignano 12 gradi e mezzo. Le previsioni oggi al mattino: cielo in genere nuvoloso, coperto con piogge diffuse, in genere deboli a ovest, altrove moderate o localmente abbondanti verso Isontino, Carso e Trieste. Quota neve a circa 1.800-2.000 metri. Tempo in miglioramento nella seconda parte della giornata, con possibile bora moderata sulla costa alla sera. In apertura una notizia arrivata poco fa in redazione dalla SORES, la sala operativa delle emergenze. C'è stato un incidente stradale con ben 8 feriti in A23 questa notte intorno all'1:30 all'altezza di Pietra Tagliata in direzione Tarvisio. Il conducente di un furgone ha perso il controllo, il mezzo è finito contro una barriera New Jersey. Sul posto la stradale di Amaro e tre ambulanze inviate dalla SORES insieme all'elisoccorso. La ricostruzione dell'incidente è in fase di ricostruzione. Sul furgone viaggiavano in tutto 8 persone, tutti cittadini stranieri, rimasti feriti nell'impatto accaduto tra le due gallerie di Pietra Tagliata. Una persona è stata trasportata in volo all'ospedale di Udine in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Altre 7 persone, tra cui ci sono anche 2 bambini, sono state invece portate in ambulanza a Tolmezzo, ferite in maniera non grave. Sul posto anche i vigili del fuoco. Parliamo ora di povertà energetica, ovvero dell'impossibilità di pagare le bollette e far fronte a una crisi che riguarda un numero crescente di persone. I casi sono in continua crescita, dice da Udine Adiconsum. Contrastare la povertà energetica per famiglie, imprese e comuni. Se ne è parlato ad una tavola rotonda promossa da Adiconsum e CISL nella sede della Camera di Commercio di Udine. Oltre 1.000 le richieste di aiuto arrivate da gennaio in avanti agli sportelli Adiconsum, metà delle quali di persone che non riescono a far fronte ai costi dell'energia. Tra le proposte, destinare finanziamenti mirati proprio a chi non si può permettere interventi di efficientamento o elettrodomestici a bassi consumi. Carlo De Masi, presidente nazionale di Adiconsum. Dotare chi è in povertà energetica di apparecchiature o di efficientamento o di realizzare impianti fotovoltaici per la propria abitazione e quindi autoprodursi l'energia. Renata Della Ricca, segretaria CISL FVG. Altra richiesta che noi facciamo è proprio di accelerare sulle autorizzazioni, perché molti fanno gli impianti fotovoltaici, poi per l'attivazione devono aspettare anche quasi un anno e quindi si perde un anno di energia. Per le imprese, l'assessore alle attività produttive, Sergio Midiobini, ha annunciato a breve l'apertura di un bando per il fotovoltaico dedicato alle aziende, che potrà contare su risorse regionali e comunitarie, da affiancare ai 100 milioni per i pannelli sui tetti delle abitazioni. Ma ora che anche i bilanci dei comuni sono messi a dura prova, gli amministratori locali chiedono a Roma più attenzione. Dorino Favot, presidente di ANCI FVG. La richiesta è stata fatta in più riprese a livello di ANCI nazionale. Noi a livello regionale siamo fortunati perché la regione ci ha dato comunque già alcuni aiuti. Ci attendiamo una risposta forte da parte del governo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Numeri consegno più per l'economia in regione grazie soprattutto al settore edilizio e a quello dei trasporti, ma il quadro in prospettiva non è altrettanto roseo secondo il report della Banca d'Italia. Il ritratto è quello di una regione che ha resistito bene alla crisi. Le sue imprese hanno saputo tenere il passo delle esportazioni e finora hanno assorbito l'impatto del caro energia. Lo rivelano i dati dell'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia, secondo i quali l'economia del Friuli Venezia Giulia è cresciuta di 6 punti percentuali rispetto al 2021. Merito del settore edilizio, che resta vivace con il 14% in più di ore lavorate rispetto all'anno precedente, ma va bene anche il mondo dei trasporti, con la movimentazione di merci del porto di Trieste che è cresciuta del 5%. Ha faticato invece l'industria, che ha risentito dei prezzi dell'energia e della difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. È riuscita ad assecondare, grazie alle scorte, la domanda in espansione, con valori cresciuti del 27,3%, ma nel breve termine si prevede una stagnazione. Marco Martella, direttore Banca d'Italia, sede di Trieste. Per quanto riguarda le prospettive, in un momento di rallentamento del commercio internazionale, il Friuli Venezia Giulia potrebbe risentire appunto negativamente e quindi avere una crescita del suo settore manifatturiero più contenuta o meno dinamica rispetto al passato. Finora le imprese hanno spostato il peso dei costi sempre più alti sul consumatore, che ne paga le conseguenze. Secondo le stime, i consumi delle famiglie cresceranno ancora, ma con più cautela. Il tasso di inflazione è tra i più rapidi mai visti, spiega Banca d'Italia, e questo spaventa i nuclei meno abbienti. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà consegnata oggi la nave da crociera MSC Seascape, la nave dotata di tecnologia ambientale di ultima generazione con miglioramenti all'efficienza energetica, dei più recenti sistemi per ridurre le emissioni nell'aria, nonché di un avanzato sistema di trattamento delle acque reflue. Con i suoi 339 metri, MSC Seascape è la nave più lunga della flotta e offre 13.000 metri quadri di spazi esterni. La cerimonia si terrà allo stabilimento Fincantieri di Monfalcone alle 11. Nuovi voli dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Ryanair decollerà ad aprile verso Dublino e Barcellona. Un piano di espansione aeroportuale fatto di 11 rotte, 500.000 di passeggeri e una nuova apertura internazionale. Parte da qui il nuovo accordo di 5 anni siglato tra Ryanair e l'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari, presentato insieme al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Un primo passo per accrescere le connessioni della regione con, si spera, ricadute positive sul turismo. A simboleggiarlo saranno i due nuovi voli attivati da aprile 2023, uno per Dublino e uno per Barcellona, pensati sia per il turismo che per i viaggi business. Insieme a queste nuove rotte aumenteranno le frequenze sui voli domestici. Eddie Wilson, amministratore delegato Ryanair. Ryanair porta all'Italia e soprattutto alla regione un collegamento internazionale con turisti in arrivo tutto l'anno per quella che è un'area bellissima ma trascurata dalle rotte internazionali. L'obiettivo del piano, spiega l'amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo, è una crescita strutturale dei collegamenti aerei, non solo con Ryanair, per cambiare il profilo del traffico della regione. Ci saranno anche altre compagnie con cui stiamo per chiudere degli accordi, ma Ryan sviluppa domanda. Ryan è una compagnia che ha una grossissima capacità commerciale. Ryanair, spiegano, è l'unico mezzo di trasporto che condiziona la domanda, induce cioè i passeggeri a scegliere tra le sue destinazioni e non viceversa. Per l'aeroporto e regione questo è un buon punto da cui partire per rendere sempre più centrale Trieste nelle rotte dei cieli. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il segretario generale della Federazione Italiana Metalmeccanici, CISL, Roberto Benaglia, ha partecipato ad un incontro allo stabilimento di Leonardo, a Ronchi dei Legionari, una costola del grande gruppo aerospaziale e militare dello Stato. Si è parlato di un possibile sviluppo del settore dei troni. 278 dipendenti alla Leonardo di Ronchi, con il 59% di laureati ed un trend di organici in crescita del 16% negli ultimi 5 anni. Attività di progettazione e sviluppo di sistemi a pilotaggio remoto, più noti come droni, inoltre realizzazione di simulatori di volo militari e civili. L'attuale punta di diamante è il drone Falco Explorer, 16 metri di apertura alare, nella classe di media altitudine e lunga performance. Top secret i paesi che hanno acquistato i sistemi Falco a pilotaggio remoto, ma si sa che sono 60 i contesti operativi mondiali in cui vengono impiegati. La Federazione Italiana Metalmeccanici CISL, che ha incontrato i dipendenti, vede nello stabilimento di Ronchi potenzialità ancora inespresse che vanno ben al di là degli attuali livelli di sviluppo. Roberto Benaglia, segretario generale della FIM CISL. Noi abbiamo nel settore metalmeccanico alcune realtà, l'automotive, la siderurgia. Qui nel questo territorio il caso Wärtsilä, che dimostrano come le crisi stanno attanagliando l'industria metalmeccanica, però siamo anche qui per testimoniare che c'è un'industria positiva, sana, costruttiva, che ha buona occupazione, che ha anche buoni salari, che però non deve dormire sugli allori, deve guardare al futuro. I temi della sicurezza e della difesa in Europa sono diventati prioritari stante la tragedia della guerra in Ucraina. Gli investimenti cresceranno, noi pensiamo che Leonardo abbia delle caratteristiche per attirare i giovani, di attirare neolaureati, di far sì che sia un posto interessante di crescita dell'occupazione di qualità per i prossimi anni. Ronchi dei Legionari, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora la Ferriera di Servola. A Trieste c'è stato un vertice per fare il punto sul recupero dell'ex area a caldo. Un altro capitolo che si chiude. Dopo le firme e le demolizioni dell'estate è effettiva la permuta delle aree tra lo Stato e Acciaierie Arvedi. Parliamo della Ferriera di Servola, dove l'impianto a caldo è stato demolito e la cui area è destinata alla realizzazione di infrastrutture al servizio del porto triestino. I lavori sono già partiti e serviranno 2-3 anni per vederli ultimati. Alessio Casci, direttore regionale Demanio, Friuli Venezia Giulia. L'attuazione dell'accordo di programma per il recupero della Ferriera di Servola prevedeva una serie di aspetti burocratici assolutamente non ordinari. Si è realizzato la prima permuta fra lo Stato ed un privato e successivamente la parte che è stata acquisita dallo Stato è stata demanializzata in tempi rapidissimi per consentire la contrazione al massimo dei tempi che poi avrebbero a loro volta consentito agli investitori di poter operare immediatamente. Le attività proseguono, bonifiche, messa in sicurezza e recupero dell'area industriale. La collaborazione tra privato e pubblico è stata la chiave per l'accelerazione. Arvedi dal canto suo investirà nell'area a freddo proprio sui terreni una volta dal porto. Grazie anche a 27 milioni di euro in arrivo dal Ministero dello Sviluppo Economico sarà una ferriera green. Mario Caldonazzo, amministratore delegato Acciaierie Arvedi. Oggi è una ferriera 2.0, è una ferriera modello di innovazione tecnologica e soprattutto modello di sostenibilità. Nel sito di Trieste è la prima acciaieria al mondo certificata a emissioni nette zero di anidride carbonica. Trieste, Andrea Saula, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo alla cronaca. È stato operato ed è ricoverato a Udine in terapia intensiva l'artigiano di Cormons, caduto ieri da un'impalcatura alta 6 metri mentre lavorava alla sistemazione delle grondaie in una ristrutturazione di case a schiera in una laterale di via Martignacco nel capoluogo friulano. Cadendo, l'uomo è finito su una ringhiera che gli ha causato una grave lesione all'addome. Per lui anche un importante trauma cranico. A darne l'allarme il figlio, che stava lavorando assieme al padre. Alla guida sotto effetto di stupefacenti, denuncia, patente sospesa e camion confiscato ad un autotrasportatore che alcuni giorni fa, dopo aver abbattuto alcuni manufatti nel tratto autostradale tra Villese e Palmanova, ha continuato a procedere per alcuni chilometri in direzione Venezia, sbandando a destra e sinistra, mettendo in allarme gli altri conducenti in transito. In molti hanno segnalato quanto stava succedendo al centro operativo autostradale, quando gli agenti hanno fermato arrivato il camion, il conducente è risultato subito aver assunto sostanze stupefacenti. All'esame effettuato su strada con il drogometro, la conferma è arrivata poi dagli esami condotti in ospedale. Frattura nella politica regionale in vista del voto del prossimo anno. Da ieri una regione in comune di cittadini non ha più un consiglio direttivo. I cittadini si spaccano sulla linea politica in vista delle prossime regionali. Decade il consiglio direttivo a seguito delle dimissioni di 14 dei 30 componenti. La formazione civica è divisa tra chi vuole rimanere ancorato al centrosinistra e chi invece guarda con maggiore interesse il terzo polo costituito da Azione Italia Viva. I dimissionari contestano al presidente dei cittadini Bruno Malattia di voler abbandonare la storica collocazione nell'area progressista. Malattia vorrebbe un'alleanza col terzo polo escludendo sinistra e Movimento 5 Stelle, rimanendo comunque aperto al Partito Democratico. Inoltre il presidente è contrario alle ricandidature dei due attuali consiglieri regionali, Tiziano Centis e Simona Liguori. Non siamo la succursale del PD, accusa Malattia. Di qui la decisione dei 14 dissidenti di far decadere il direttivo e definire la direzione politica tornando all'assemblea dei soci che, a loro parere, mostrerà un orientamento che non rispecchia quello del presidente. A capitanare la fronda ci sono i consiglieri regionali, il sindaco di San Vito al Tagliamento Alberto Bernava e l'ex sindaco di Azzano Decimo Marco Putto. Dalla parte di Malattia, Maria Teresa Bassaporopat, già presidente della provincia di Trieste, e l'ex consigliere regionale Pietro Paviotti. L'assemblea dovrebbe tenersi nelle prossime settimane. Un periodo delicato questo in cui si scaldano i motori per un voto regionale ancora senza data, ma che sarà in primavera. Incerto il quadro delle opposizioni. Appare improbabile però un campo largo che includa Movimento 5 Stelle e Terzo Polo, su cui pesano veti reciproci. Sembra più chiaro il quadro nel centrodestra, con la ricandidatura del presidente Massimiliano Fedriga, che avrà anche una lista a nome suo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Lubiana ieri il governatore Massimiliano Fedriga ha ricevuto dal presidente della Slovenia, l'uscente Borut Pahor, l'ordine d'oro al merito. Per aver contribuito a rafforzare le relazioni fra Italia e Slovenia e per il sostegno dato alla minoranza slovena. Con queste motivazioni, nel palazzo del governo di Lubiana, Borut Pahor, presidente uscente della Repubblica Slovena, ha consegnato a Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, la massima onorificenza slovena, quella dell'Ordine d'Onore al Merito d'Oro, che gli aveva conferito a gennaio. Pahor ha citato la restituzione del Narodni Dom di Trieste alla minoranza e la cerimonia a Basovizza e a Gorizia Nova Gorizia. Dallo scambio di ringraziamenti e strette di mano di circostanza traspare chiaramente la sincera stima e amicizia che c'è tra i due presidenti. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Gli egoismi dei singoli paesi non saranno mai un vantaggio se non si invece si valorizza un'unitarietà europea per delle scelte che possono andare a vantaggio di tutti. Pahor di questo ne è stato un esempio e lo voglio anche ringraziare per questi suoi due mandati, perché ha rafforzato sicuramente non soltanto la Slovenia ma l'Unione Europea stessa. Pahor ha premiato con la massima onorificenza anche il presidente della regione austriaca della Carinzia, Peter Kaiser. Prima della cerimonia, Pahor ha incontrato la neoeletta presidente della Repubblica Slovena, Natasha Pirc-Musar, e hanno parlato anche di minoranza slovena e rapporti bilaterali. Infine, il presidente Pahor ha annunciato che incontrerà il suo omologo, presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, a inizio dicembre. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Emergenza migranti, Trieste e Gorizia in prima linea a fronteggiare gli arrivi dalla rotta balcanica, tra ipotesi hotspot e ricerca di soluzioni immediate per dare accoglienza. Mentre anche i dati dell'Unione Europea dicono che la rotta balcanica è quella più frequentata dai migranti, fra Trieste e Gorizia si continua a discutere della messa a punto di un hotspot lungo la fascia confinaria sul Carso triestino per identificare rapidamente chi arriva ed evitare gli accampamenti all'addiaccio. Lo ha confermato il prefetto di Trieste, Annunziato Verdè, precisando che al momento il piano non è ancora ufficiale, mentre quello di Gorizia, Raffaele Ricciardi, ha aggiunto che ci vorrà ancora del tempo perché il progetto si concretizzi. Queste sono idee che devono essere valutate e quindi al momento non hanno il crisma dell'ufficialità. Noi informiamo costantemente il Ministero dell'Interno di quello che succede nella nostra regione, che costituisce il confine terrestre e il terminale della rotta balcanica. Stanno inoltre proseguendo, ha spiegato Vardè, i ricollocamenti di chi è giunto a Trieste e al contempo si continua a lavorare per creare dei punti di accoglienza in città. Col sindaco c'è una interlocuzione costante. È da tempo che ci sentiamo tutti i giorni su questo argomento, abbiamo anche individuato delle soluzioni, c'è una perfetta intesa, dobbiamo superare le difficoltà che ci sono per concretizzare queste ipotesi che abbiamo fatto. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà sostituito uno dei due abeti natalizi che il comune di Paolaro ha donato a Udine. Il primo albero è stato posizionato in piazzetta Lionello, un abete rosso da 10 metri davanti al comune. Il secondo avrebbe dovuto abbellire la piazza del Duomo, ma era danneggiato. L'inaugurazione dei due abeti natalizi è prevista comunque per il prossimo 25 novembre. Quest'anno Palazzo d'Aronco ha deciso di tagliare di 100.000 euro l'investimento sulle iniziative di Natale, quasi il 50%, per dare un segnale di contenimento dei costi energetici, ha spiegato l'assessore al turismo Maurizio Franz. Non ci sarà quest'anno la pista di pattinaggio in piazza Venerio, che da sola pesava per 30.000 euro. Le porte cittadine e altri monumenti saranno illuminati grazie anche all'intervento di sponsor privati. A distanza di 20 anni, gli architetti Roberto Daris e Romano Schnabel, che hanno progettato la piazza transalpina Targa Europa e di Gorizia in occasione dell'ingresso della Slovenia in area Schengen, hanno rivisto la sistemazione del piazzale in un nuovo progetto dal nome Una piazza per due città, che sta per essere donato alle amministrazioni di Gorizia e Nova Gorizia con lo scopo di suscitare un dibattito più partecipativo. L'architetto Schnabel ci spiega in questa intervista come è concepita la piazza nel progetto studio che stamane alle 11 sarà illustrato al sindaco di Gorizia e all'assessore ai lavori pubblici. A nostro parere dovrebbe svolgere il ruolo di piazza, letteralmente di piazza, tra le due città. E naturalmente questa è una proposta che noi facciamo qui nella perfetta autonomia che ci compete di architetti e, se vogliamo, anche di persone di cultura. Cosa c'è in questo progetto? Ma in questo progetto viene ribadita la centralità del grande mosaico presente, pensi che ha 16 metri di diametro, 5 tipi di granito, cioè è un oggetto veramente prezioso ed è diventato il monumento più importante, così tra i monumenti moderni della città, il più fotografato, il più vissuto. Celebra l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea. Il progetto per la nuova transalpina che è stato presentato si è rivelato irrealizzabile, è in corso una gara per rendere il progetto esecutivo. Cosa ne pensa di questo progetto? Invece di costruire cose nuove, perché non utilizziamo gli edifici esistenti? Alla transalpina c'è una magnifica stazione che per 2/3 non è utilizzata dalle ferrovie dello Stato sloveno. Al lato della stazione c'è un magazzino ferroviario vuoto a disposizione, diciamo, per l'epicenter, che è questa struttura. E poi lo più importante, costruire laddove è possibile strutture aperte alla vita della collettività, ma riusando ciò che esiste in buona parte. La Sissa inaugura oggi il nuovo anno accademico, la cerimonia alle 11 per dare il benvenuto ai nuovi studenti. La Lectio Magistralis, dal titolo Open Science, cosa, perché, chi e come, la prospettiva di un'astrofisica, sarà tenuta da Licia Verde, professoressa di fisica e astronomia all'Università di Barcellona. Nel corso della cerimonia saranno attribuiti i premi Luttmann per la migliore tesi di dottorato in matematica e per la miglior tesi di master in comunicazione della scienza e i premi per le migliori tesi in fisica e neuroscienze. Da oggi è operativa anche a Tolmezzo una commissione medica locale patenti di guida di Udine. A novembre sarà aperta presso il presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate con cadenza prevista di 2 sedute mensili e successivamente l'orario sarà rimodulato in base alle esigenze della popolazione. La CML, l'organo cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili demanda l'accertamento di idoneità alla guida di persone con condizioni di salute che potrebbero pregiudicare la capacità di condurre veicoli. Un appuntamento di sport con la pallanuoto nel recupero della seconda giornata di andata del campionato di serie A1 femminile. Le orchette alabardate ospitano l'Orizzonte Catania, campione d'Italia in carica. Si gioca alla Bruno Bianchi di Trieste con inizio alle 19:30. Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco. In scena in regione Elio con Ci vuole orecchio, in cui ripercorre la carriera di Enzo Iannacci. A Tolmezzo alle 20:45. Il frontman delle Storie Tese sarà ospite questa mattina a Home Special Home a Felletto Umberto. Dalle 11 alle 13 Elio farà visita alla Fondazione Progetto Autismo FVG Onlus, entrando nei laboratori di musica e di cucina e visitando il centro. La Fondazione Progetto Autismo FVG Onlus è nata nel 2006 come realtà di autoaiuto per i genitori. Oggi supporta più di 90 famiglie in Friuli Venezia Giulia. Un percorso musicale lungo 9 mesi, quello presentato ieri dall'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, una stagione diffusa per la compagine Under 35, che vedrà in Stefano Bollani, pianista jazz di fama internazionale, la sua stella, protagonista di 2 concerti a giugno, il 9 a Udine, il 10 a Trieste. 18 i concerti in 8 comuni con ospiti di caratura nazionale ed internazionale, oltre a Bollani, Alfredo Zamarra della Fenice di Venezia, Andrea Oliva, Francesco Di Rosa, Andrea Zucco, Guglielmo Pellarin dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. I giovani talenti della direzione Alessandro Arnoldo e Ferdinando Sulla, collaborazioni anche sul territorio e valorizzazione dei talenti Under 35 con il concorso La Nove Musiche. Marco Paolini sarà protagonista in 5 teatri del circuito ERT con il suo nuovo spettacolo Antenati The Grave Party. Il monologo aprirà la tournée questa sera a Lignano Sabbiadoro alle 20:45, per spostarsi poi a San Daniele del Friuli, alle Stizza, Pontebba e Premariacco. Tutte le serate avranno inizio alle 20:45, con l'eccezione di Pontebba, dove il sipario si alzerà alle 21. Paolini è anche primo ospite della stagione della videorubrica web Il Teatro a casa tua sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di ERT FVG. Pasquale Iannone in un recital pianistico proposto alle 18 al Conservatorio Tomadini di Udine, in programma Rachmaninoff e Liszt. L'appuntamento è organizzato da Piano City Pordenone con l'Accademia di Studi Pianistici Antonio Ricci. Al Conservatorio Tartini di Trieste, il duo composto da pianisti Tami Kanazawa e Yuval Admoni, una coppia nella vita, così come sulle scene musicali. Alle 20:30 nella Sala Tartini di Via Gega, in programma Liszt con il poema sinfonico Orpheus e Riminiscenze dal Don Giovanni. Si proseguirà con le danze sinfoniche tratte da West Side Story di Leonard Bernstein e Fantasia su Porgy and Bees di George Gershwin. Concerto gratuito su prenotazione. E ritornano nel circuito ERT gli Oblivion con il meglio del loro repertorio in versione acustica alle 20:45 al Teatro Verdi di Maniago, domani all'Auditorium Biagio Marin di Grado. Joe Fiedler sarà ospite questa sera del Circolo del Jazz Thelonious in via Madonna del Mare a Trieste. Fiedler è uno dei più importanti trombonisti della scena jazz musicale e da anni protagonista della trasmissione televisiva Sesame Street, in Italia in onda sui canali Rai col nome di Sesamo Apriti, nota per ospitare i pupazzi Muppet. Alle 20:30 al Politeama Rossetti, 43° Festival della Canzone Triestina, con 12 nuovi brani dialettali. In programma anche la novità del primo talent contest Ballando con le care canzoni triestine, che vedrà in gara le scuole di ballo cittadine per contendersi il premio Triestinità. Il Comune di Tolmezzo propone 4 iniziative in attesa della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Il primo appuntamento è in programma alle 17:30 alla Biblioteca Civica Adriana Pittoni, che ospiterà la lettura, a cura di Veronica Rossi, di alcuni brani estratti dal libro Stalker di Daniele Nicastro, integrati da riflessioni e interventi dei referenti del Centro Antiviolenza Voce Donna di Tolmezzo. A Trieste, alla libreria via Minerva di via San Nicolò alle 18, Massimo Carlotto presenta il romanzo collettivo Youthless, Fiori di strada, dialogherà con l'autore e il giornalista Alessandro Mezzenalona. Ivan Zamper presenta il libro di racconti Quello che ci portiamo dentro all'antico Caffè San Marco a Trieste alle 18. Alla Casa del Popolo di Via Ponziana a Trieste, il libro di Gianandrea Franchi, Il diritto di Antigone, appunti per una filosofia politica a partire dai corpi dei migranti. Sarà presente l'autore, organizza l'associazione Tina Modotti alle 18.30. Al Circolo aziendale di Allianz in via Bottego Trieste, presentazione del libro Itinerari tra due stagioni di Mariangela Bertoni. E si inaugura la mostra dedicata alla famiglia De Claricini Dornbacher alle 18 nella sede del Consorzio Culturale del Monfalconese di Villa Vicentini Miniussi a Ronchi. La mostra è composta da pannelli che raccontano la storia della famiglia da Cividale a Gorizia, realizzati dall'Associazione Musei Formentini della Vita Rurale e dalla Fondazione De Claricini Dornbacher. Al 37esimo Festival del Cinema Iberoamericano di Trieste, le proiezioni che cominciano alle 9 al Teatro Miela sono dedicate ai ritratti di donne determinate, militanti per i diritti, mentre alle 16.45 sarà la volta della musica brasiliana di Pixinguinha. Il pomeriggio alle 17 è dedicato a Julian Assange, che sarà protagonista di Hacking Justice e del libro presentato subito dopo. Al Dipartimento di Studi Umanistici si conclude invece l'omaggio a Manuel Antin con gli ultimi tre film. Siamo alla rassegna stampa, allo sviluppo del Trieste Airport in primo piano del piccolo di Trieste, da Barcellona a Dublino, Ryanair potenzia i voli, questo è il titolo. Da marzo dunque avete sentito nuove rotte, più aerei per Bari e Palermo, in estate attive 11 tratte. In taglio alto, vertice NATO sui missili in Polonia, sotto il titolo principale invece il Friuli Venezia Giulia attira investitori americani, questo territorio è sexy, è stato siglato. Il primo protocollo operativo fra Friulia e American Chamber of Commerce in Italy. E Banca Italia, il caro energia e l'inflazione frenano la ripresa. La cronaca in prima pagina, caso pronto soccorso, presto l'incontro Poggiana sindacati, poi Ferriera, fra un mese sarà attivata la linea di zincatura e stop alla sezione slovena al Nido di San Giovanni. Il PD si appella al sindaco. Capocronaca nelle pagine interne, capocronaca dunque di Trieste, povertà in crescita, dal comune oltre 66 milioni di aiuti nel 2002, i dati dei servizi sociali, trend confermato dalla Caritas, i costi dell'energia aggravano molte situazioni. Le costruzioni trainanti per la crescita in regione, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine su dossier Banca d'Italia, ma nella fotonotizia c'è il conflitto Russia-Ucraina e la crisi provocata dai missili arrivati in territorio polacco. Di spalla la cronaca con l'incidente sul lavoro di ieri a Udine, l'albero di Natale collocato e subito rimosso da Piazza Duomo perché perdeva i rami e il camion a zigzag in A4 guidato da un autista. Sta sotto effetto di droghe. In taglio basso la storia, i due fratelli si incontrano dopo 70 anni, uno è nato in Argentina. Ad aprire la cronaca cittadina, la statua dello scrittore Carlos Gorlon davanti alla biblioteca Ioppi, sabato l'inaugurazione. Sul Gazzettino, inverno al freddo per 80.000 famiglie, sotto il via libera della Giunta ad un parco fotovoltaico nella zona del Torre e sopra il Giro d'Italia sul Lussari, patto per l'autonomia e lega ambiente. Preoccupati per l'impatto dell'evento. In taglio basso il calcio udinese, numeri del pubblico vincenti. La prima pagina del piccolo di Gorizia e Monfalcone si presenta oggi con gli stessi titoli principali del piccolo di Trieste. Cambiano i titoletti di cronaca. Un resort da fiaba sul Collio Sloveno, costo 30 milioni. I lavori di realizzazione dovrebbero partire a primavera. L'area a 10 km da Plessiva, hotel da 54 stanze e 38 suite. E poi ancora sequestrati 71 pali dalla Capitaneria ai Casoneri di Panzano, lo sgomento del sodalizio che attende da tempo gli ormeggi. E poi ancora un titolo, operaio cormonese cade da un tetto, oggi è in gravi condizioni. Sul Gazzettino di Pordenone, in prima pagina però nell'edizione nazionale, una foto, il gatto che veglia la tomba della cagnolina compagna di giochi, succede a Pordenone. Nel dorso della destra tagliamento, fuga dagli ospedali, 1300 dimissioni in due anni, di fianco da Porcia, caso Electrolux che diventa nazionale, si allarga il fronte contro i tagli. Nella fotonotizia, droga a scuola, controlli dal cielo, nel protocollo firmato ieri in prefettura di fianco a Sacile il progetto della nuova scuola di San Odorico, in basso il calcio, Burrai regista del primato nero-verde. Sul Messaggero Veneto, nella colonna di cronaca, dal porto sul Nocello ai cotonifici, sogni rimasti nel cassetto, la rigenerazione urbana di Pordenone in apertura della cronaca cittadina. Poi droni che saranno utilizzati nei controlli antidroga nelle scuole, ne abbiamo parlato ieri, il ferimento ieri di due paracadutisti USA durante le fasi di atterraggio di una esercitazione a Maniago. Il Cinema Centrale di Udine trasmette in diretta la serata d'apertura di The Royal Ballet a Diamond Celebration. Il gala festeggia i 60 anni degli Amici della Royal Opera House di Londra, regalando una serata di perle classiche e contemporanee. Sul palco una straordinaria lista di primi ballerini, i più ricercati della compagnia. L'appuntamento è alle 20:15. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 la rubrica in friulano Vueof Evelin D, che parlerà della piattaforma dell'arredo imbottito alla Casa dell'Immacolata di Udine. Alle 11:20 a volo radente. I programmi regionali tornano poi alle 13:29. In regia Paolo Cassano e Eugenio Giuffrida, in redazione Samantha Tagonda, Eva Ciuccheri, Tamicoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.